Non ce la faccio più. Non ce la faccio. Sto male. Ho la febbre. E fa freddo. Un gran freddo. Ora che sono in questo posto orrendo e sto così male, io dovrei riuscire a pensare soltanto a me stessa. Sì. Io dovrei trovare la forza per reagire, ma non ce la faccio. Non ce la faccio. La mia mente vola. Vola da un'altra parte. Vola. Vola da Denise e da Elisabeth, le mie bambine. Dove siete? Dove siete ora? Le mie bambine. Loro non sanno niente di questo orrore. Loro vivono in un mondo fantastico, loro sono il bene assoluto. Ma il bene non può niente. Quando arriva il male. Era un giorno d'estate. Quando mi hanno arrestato. Io ricordo il viso di mia figlia Elisabeth terrorizzato, pensando di essere lei colpevole di qualcosa. Mammina, non ho fatto nulla di male, credimi. Ma scusate, io non ho rubato gli spinaci del signor Perec nel suo giardino, lo giuro. Mammina, credimi, lo giuro. E quando io mi sono inginocchiata per abbracciarla, per stringerla a me, ho sentito che tremava. Lo so tesoro che non hai rubato. Lo so amore che sei una bambina buona, io ti amo. Amo te e tua sorella. State vicine, aiutateli. Oh, non fare così, la mamma torna presto. La mamma deve andare con questi signori, li vedi? Questi signori gentili. E poi ritorna a casa. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, tesoro. Quante bugie. Quante bugie a lei. A sua sorella, a me stessa. Quante bugie. Ci siamo raccontati tutti. E quando iniziano le bugie, diventa tutto così cupo, così, così sporco. Quanto dolore su di noi. Come una pioggia di lacrime ad annegarci. Eppure la verità era così chiara davanti ai nostri occhi. Tutto scritto, tutto deciso da loro. I tedeschi, spietati. La loro verità era disegnata con precisione calligrafica. Un acquerello bianco e nero, la loro verità. La verità no, è fisica, da poterla toccare, vedere, annusare. La verità è qui dove sono prigioniera dentro questo letto, dove I pensieri faticano a respirare e gli occhi sbattono contro le sbarre di ferro. E tra le fessure delle grate vedo capanne di legno e altri fantasmi come me che sussurrano. Incapace ormai di raccontare il dolore. Le parole sono le prime a finire. Io che ho sempre pensato che sarebbero state proprio le parole a salvarmi, a salvare le mie bambine, a salvare mio marito. Mio marito. Michel. Ora che so tutto, ora che io ho capito tutto, so anche quanto sono stata stupida. Ora che io so tutto, vorrei essere dentro uno dei miei libri, sì. Cambiare questa verità orrenda con la finzione, dare un senso diverso alla storia, come quando uno è nel dormiveglia e quando crede di poter guidare i sogni. I sogni. I miei sogni sono incubi e non posso farci più niente, niente. Io solo pensare. Sì, devo cercare di pensare, ricordare. Ma dove sono? Dove sono finite? Dove sono finite le mie bambine? Perché non le ho salvate? Ma cosa sto dicendo? Cosa sto dicendo? Sto male, ho la febbre, ho freddo in questo letto. I miei pensieri battono nella mia testa come colpi di frusta e tremo. Tremo ad ogni ricordo. Dov'è? Dov'è mio marito? Michel, dove sei? Cosa è stato licenziato? Come? Non capisco. Ah, mi dispiace molto, ma la banca non ha più bisogno di lui. Ma cosa state dicendo? Cosa? I miei editori non possono più pubblicare le mie opere? Ma perché? Perché i miei libri non sono più in vetrina? Quali libri? Quali libri, signora Nemirovsky? Non ricordo di averne mai avuti i suoi libri nella mia libreria. Le persone intorno a me mi chiudono le porte in faccia. Ma cosa è successo? Gli amici più veri mi dicono: scappa, scappa Irene, scappa, scappate voi che potete, siete ricchi. Ma perché devo scappare? Ma io cosa c'entro? Sono ebrea, sì, è certo. Certo che lo sono, non è mica una colpa, vero? Io sono ebrea, ma come tutti gli esseri umani respiro, no? Per vivere. E allora, cosa c'è di strano? Sì, da bambina mi hanno portato nella sinagoga di San Pietroburgo, ma era l'unico modo per vedere i miei vecchi nonni. Ma cosa c'entro io con tutto questo? Ma perché mi devo occupare di queste cose? Sono cose poco importanti, sono sciocchezze. Io sono una mamma. Sono una moglie, io scrivo, io so scrivere, questo conta, solo questo, scrivere. Mi illudevo. Sì, lo so, è difficile da spiegare. No. Perdo il filo, perdo la direzione. Io che ho sempre saputo dove andare. Io perdo l'anima che per me ha il colore dell'inchiostro sul foglio bianco. Perfetto. Ma dove sono? Dove sono i miei quaderni, i miei appunti? Io piango, saperli gettati nella polvere, ma cosa sto facendo? Ma io sto urlando. parlo ad alta voce, non so più cosa dico. Le altre prigioniere qui all'infermeria mi guardano con gli occhi sbarrati. I miei pensieri sbattono contro la mia testa e fanno un rumore orrendo. Ma come sono finita così? Ma dove sono i miei abiti di lusso? Dov'è il mio campanello? Datemelo! Voglio chiamare la mia cameriera Mavra! Mavra! Mavra! Ma cosa sto dicendo? Sono in prigione. Sono grigio, sporco, freddo e cenere. Irene! Irene! Ma chi parla? Voci intorno a me. Irene! Voci! Vedo! Oh, vedo le luci della nostra casa di Parigi, c'è gente nel salone, Bernard, Bernard, Bernard, amico mio. Irene, Irene, c'è una nave che vi aspetta a Marsiglia, poche ore di treno, e poi sarai in salvo con tutta la tua famiglia, non stare qui, tu non sei al sicuro, ma non leggi i giornali, non ti guardi intorno. Ma come fai a essere così sciocca, tu che hai vissuto sbattendo in faccia agli altri la tua intelligenza, Irene? Povero Bernard. Povero amico mio. Come posso risponderti? Se non ci sono risposte a questa follia. La mia intelligenza ha peccato di vanità. A me questo non lo faranno, mi ripetevo. A me questo non può accadere. Io sono francese. La mia famiglia è francese. Sono venuta in Francia, ho vissuto secondo le regole della Francia. Io le ho rispettate sino all'ultimo istante. Anche quando sono cambiate. Anche quando mi hanno messo la stella gialla sul petto, io ho continuato a rispettare la Francia. Anche quando ho perso tutto, ho continuato a pensare che tutto mi sarebbe stato restituito. Ce lo siamo ripetuto migliaia di volte io e mio marito. Basta rispettare le regole e ogni cosa si sistemerà. Persino quando quelli della Gestapo sono venuti ad arrestarmi, io non ho mai dubitato, ma nemmeno per un momento, mai. Io non ho mai perso, per un attimo, la fiducia. Ma che stupida sono stata. No. Ma forse non sono solo stata stupida, no. Sono stata tragicamente me stessa. Io sono quello da cui provengo. Sono un'esule. È questa la verità. Io sono sempre fuggita. La mia è stata una fuga continua, sì. Dalla Russia, dove ero nata, dal terrore della rivoluzione. Io sono fuggita da mia madre che non mi voleva. Sono fuggita dalle mie origini, da quella che oggi chiamano la mia razza. Io sono fuggita dal mio mondo. E quando io sono diventata scrittrice, fuggire mi è sembrato naturale, continuare a scappare, scappare, scappare, ma scappare da dove? Scappare da me stessa. Da me stessa. Solo quando sono diventata una mamma, non ho più voluto fuggire. A me piaceva quella calma confusione che era diventata la mia vita. Per una volta ho voluto dire basta. Sì, Irene, basta scappare. No, non scapperò mai più. Irene, dritta! Dritta, testa alta, l'amore! Irene, l'amore può tutto. Mi sentivo come se fossi dentro un mio libro. Ma non è vero. Io mi sbagliavo. Io pensavo di potermi fermare proprio quando avrei dovuto fuggire. Ma io non volevo che le mie figlie diventassero grandi vivendo dentro il salone di un hotel, come è accaduto a me in Finlandia, dove eravamo scappati. Il ricordo adesso arriva come arrivasse dal secolo scorso, come una cartolina di Natale spedita da un'altra vita. Ed era già la mia seconda vita. E non avevo ancora 16 anni. La mia prima vita era semplice. Era la vita di una bambolina vestita a festa tra gli stucchi dei palazzi dove vivono i miei genitori. Ero così talmente ricca da non capirne il significato. Ero talmente protetta da non sapere neppure cosa succedeva oltre la finestra della mia splendida casa a San Pietroburgo. Quando io uscivo per mano alla mia tata, guardavo stupita gli altri, sì, il mondo intorno a me, i poveri. Mi sembravano piccole ombre che sgusciavano via al mio passaggio con gli occhi bassi. E ora che sono qui in questa prigione, al buio, capisco meglio quello che non capivo da bambina, la paura di chi non ha niente, di chi non conta niente, di chi sa che la propria vita è appesa a un gesto di uno sconosciuto, come le piccole navi di legno che i bambini fanno galleggiare nei laghetti dei giardini di Parigi. E poi un bambino più grande prende un sasso, lo lancia e tutto finisce sommerso nell'acqua. E le risate diventano lacrime. Lacrime. Come le mie. Quando finì la mia prima vita, in fuga da persone che non conoscevo, che ce l'avevano con me senza che io li avessi mai visti, li avessi mai fatto niente, che urlavano in faccia a mio padre la loro rabbia. E poi il treno, il naso appiccicato al finestrino, le nuvole di vapore, il freddo sulle guance e quell'hotel in Finlandia, dove sono diventata adulta, dove ho dato il mio primo bacio, dentro una di quelle notti fuori dal tempo che ti fanno compagnia per tutta la vita. E infine Parigi, la mia seconda vita, la voglia di scappare che continua a bruciarmi dentro, la vita di un'esule russa. Non mi basta più le cene, le feste dei grandi, la ricchezza, la malinconia dei violini ziccani. No, non fanno più per me. Mi rifugio nei libri. Alimento i miei amori immaginari, sperando di crescere in fretta, pagine su pagine, imbevute dal fuoco della passione. Scrivo, sì, io scrivo per me, solo per me. Un'altra fuga. Mia madre. Sì. Mia madre. Io neppure adesso riesco a pensare al suo volto in maniera diversa da quello di una strega. Sì. Mia madre è una strega. Lo ricordo benissimo. Era il mio 18° compleanno. Lei non vuole che io faccia la festa, io mi punto, lotto come non ho mai lottato in vita mia. No, no, no, non piango, urlo davanti a mio padre. E grazie a lui, lui che secondo mia madre mi aveva sempre viziata, vinco. Sì, vinco la sfida. La mia prima vittoria. Mia madre si arrende. Mi guarda con una smorfia che non assomiglia neppure lontanamente ad un sorriso. Una fessura cattiva alle sue labbra. Siamo davanti al buffet del ricevimento. Sugli immensi vassoi un fagiano contempla con i suoi occhi fissi piatti d'argento coperti di panini al caviale. Tartine di foie gras danzano insieme alle ostriche, pesci in gelatina, frutta esotica. E i camerieri in giacca bianca servono champagne ghiacciato. E la gente danza nei saloni immensi della nostra casa parigina. E io mi guardo nel riflesso di un vetro. E mi vedo bellissima. Raggiungo mia mamma al buffet e spero di fare la pace con lei. La trovo che parla con un suo amico. Uno di quei damerini che le girano sempre attorno. Lei è splendida. Nella sua veste di seta malva. E gioca con una lunghissima collana di perle. E sento ancora il rumore che facevano le perle nelle mie orecchie. E lei fuma un lungo bocchino che mi pare interminabile. Le sfioro con la mano la spalla. Lei si gira, mi guarda e dice al suo amico: le presento Irene, mia sorella minore. Mia sorella minore. Queste tre parole mi bruciano ancora nel cuore. Mi bruciano nel cuore. Ora che sono madre non riesco proprio a capire. Io non riesco a capire come ha potuto, come sia potuta capitare a me. Una madre così. Dopo quella festa decisi di scappare via, andarmene via, via, via. E l'unica strada che avevo per fuggire era scrivere. Sì, scrivere per me, scrivere della mia famiglia, scrivere delle cose che conoscevo meglio, scrivere per nascondermi. E invece all'improvviso si accesero le luci di Parigi, la mia terza vita. Sono una scrittrice di successo, sì, sì, scrivo e io... Non mi curo. Non mi curo dell'ostilità dei miei amici ebrei. Li dipingo avidi, pronti a inseguire i propri interessi. Beh, allora, io li vedo così, io li scrivo così. Io descrivo soltanto quello che vedo. Descrivo quello che vedo. Adesso però, dopo 20 anni che sono qui a Parigi, voglio raccontare un'altra cosa, l'assurdo di questa guerra. Sì, scrivere una grande sinfonia in 5 movimenti, modellati sulla quinta di Beethoven. I destini, sì, i destini di una moltitudine di individui travolti dalla storia. Io voglio scrivere la commedia della vita quotidiana. Un affresco lucido e implacabile. Sì, ecco, voglio scrivere un'istantanea della Francia. Un'istantanea dei francesi. L'esodo nelle strade di donne, bambini affamati, stremati, che cercano che cercano un posto per dormire. Automobili stracariche di mobili, materassi, coperte, ferme nelle strade senza più benzina. Voglio scrivere di ricchi borghesi, disgustati dal contatto del popolo, che tentano di mettere al sicuro i loro oggetti, le loro cose. Voglio intitolarla Suite francese. Ma cosa sto dicendo? Quasi sorrido a ripensare adesso a quello che io ho scritto appena pochi mesi fa. Alla leggerezza con la quale ho scritto le cose che ho vissuto mentre lasciavo Parigi in fiamme. Persino la fuga nella casa di campagna in quel momento a me non interessava, non mi toccava. Io pensavo come una povera stupida solo alle comodità che piano piano andavo perdendo. Il mio era un dramma estetico, sì. Ma Michel deve lavorare alla Banca di Parigi, beh, io faccio avanti e indietro. Poi a me il treno non pesa, no? Ma poi le piccole stanno bene con la governante che si prende cura di loro. Ma presto le leggi razziali ci costringeranno a trasferirci tutti sul piano inclinato del nostro destino. La vita rotola sempre più veloce, ma io non vedo niente, non voglio sentire nulla, non mi interessa niente. Io chiudo gli occhi, io non voglio sapere più nulla. Io li apro solo davanti al quaderno su cui scrivo. Scivoliamo sempre più in basso. Michel ha perso il posto. Cosa? Ah, non ci danno la nazionalità francese? Ah, ho capito. Ah, la danno solo alle bambine perché sono nate qui? Beh, ci battezziamo tutti e quattro, no? Ah, un po' d'acqua consacrata e tutti quanti sono cattolici. Ah. La cittadinanza non ce la danno lo stesso. Cos'è che scrive il quotidiano cattolico La Croix? Gli odori e i rumori dei forestieri disturbano il popolo francese. Ma noi non siamo forestieri. Anche con questa stella gialla che dobbiamo portare sul petto, noi non siamo forestieri. Ma un tempo in Russia bastava battezzarsi per evitare le leggi razziali, no? Ma perché qui, in Francia, nella patria della libertà, non è così? No, noi non siamo forestieri. Io sono nata a Parigi, perché a Parigi sono nata scrittrice. Io sono pronta a giurarlo davanti al mio Dio, davanti a qualsiasi Dio. Ma perché non ci ascoltano? Non abbiamo fatto nulla di male. Perché dobbiamo vivere nel terrore? Kiev, San Pietroburgo, Mosca, Helsinki, Stoccolma. Ma da quanti posti si deve fuggire? No, non sarò mai più esule, no. Parigi è la mia patria. Ma ora che hanno tolto il lavoro a Michel e a me i diritti d'autore, come faremo a sopravvivere? Temo che i miei libri vengano distrutti. Gli editori mi hanno voltato le spalle ed è rimasto solo Albin che mi sostiene. Lo so cosa ha scritto di me, che sono una scrittrice di valore, di livello internazionale, che con libri tradotti in molti paesi, dai quali sono stati anche tratti dei film di grande successo. Caro amico mio, caro Albert, non ti scordare di me. Ho scritto tanto, lo so, ma saranno opere postume. Lo so, ma scrivere mi fa sopravvivere. A volte, sai, mi manca Mi manca la forza per scrivere, ma devo. Cos'altro potrei fare? Io posso lavorare ovunque porti con me il mio quaderno. Scriverò piccolo piccolo, risparmiando l'inchiostro e la carta. Non è facile trovarne ora. Ma i tedeschi sono arrivati anche qui in paese. Per fortuna le bambine giocano felici. Ma che cosa ne sanno loro di quello che sta accadendo? Non gli sembra vero di avere un papà sempre in casa e si muovono per il paese senza paura, si sentono in paradiso. Ma io ho il terrore che presto vengano portate all'inferno. Hanno 4 e 11 anni. Sono piccole. Le mie bambine. Che ne sarà di loro? Voci. Voci dentro la mia testa. Alfred! Alfred! Alfred! Oh, lo zio di Michel. Lui vive e insegna a New York. Cosa? Cosa dici? Lasciare la Francia? No, no, ma no, no, no, di nuovo scappare. Ma perché? Ma perché, Alfred? Michel ha rapporti con i tedeschi, lui, sai, è germanista, parla la loro lingua. Pensa che una sera abbiamo cantato insieme a loro O Lieder di Schubert. Gente che ama questa musica non può farci del male. Oh, e poi forse non sanno neppure che siamo ebrei e forse non gliene importa niente. Alfred! Alfred! Alfred! Ma cosa? Cosa sto dicendo? Sto male. Mi sento soffocare. Dove è finito il mio inalatore? Oh, il mio petto brucia. Si blocca. Ho l'asma. Un'infermiera mi viene a visitare. Non c'è traccia di pietà sul suo volto. Dico che è un'infermiera solo perché è vestita di bianco. Mi dà dell'acqua. Ma il dolore non se ne va. Nella nebbia della mia mente sento solo dei passi nel corridoio. Sono passi leggeri, dei bambini qui, ma dove li stanno portando? Le mie bambine? Dove sono le mie bambine? Le hanno arrestate? No, al commissariato di polizia c'era un ufficiale tedesco. Che guardava Denise e ha detto: quanto somiglia mia figlia. E poi ha detto alla governante: non porteremo via le bambine stasera, tornate a casa, verremo a prenderle domani mattina. E così hanno potuto scappare, hanno avuto il tempo di fuggire. Se esiste un Dio, lui ci ha aiutato. Io lo conoscevo, quell'ufficiale tedesco, Madame Nemirovsky. Lei è così famosa, ma perché non è fuggita? Conosco i suoi libri, li ho letti tutti. Sono usciti anche in Germania. David Golden. Oh, è un libro pieno d'odio verso il denaro e quello che può comprare, persone, cose, sentimenti. È il denaro dei banchieri ebrei, no? Come suo padre, come il padre di suo marito. Lei lo ha capito, ne ha preso le distanze, Madame Nemirovsky. Lei è così dura con gli ebrei. Così dura con gli ebrei. No, io non sono dura. Io solo ritratto la sofferenza di questi poveri esuli che, perseguitati da secoli, costretti a scappare, inseguiti da pogrom, discriminazioni, hanno cercato del denaro, l'unica sicurezza possibile. Tutto quello che ho scritto, no, non è odio, Mi sono solo sforzata di comprendere e raccontare gli esseri umani. Hanno usato le mie parole contro di loro. E adesso contro di me. Siamo tutti perduti. Sì, tutti perduti. Michel, amore mio, tu non riuscirai a salvarmi. Lo so, tesoro, che stai facendo di tutto. Hai persino scritto all'ambasciatore tedesco, che anche se sono ebrea, non mi sono mai occupata di politica e non ho mai detto una sola parola contro la Germania. No, non riuscirai a salvarmi, amore mio. Nessuno lo può fare. Il mondo è impazzito. Cercate almeno voi, tu e le bambine, di sopravvivere. Per me è troppo tardi. È tardi. Qui è la morte. Ma che cos'è questo posto dove sono rinchiusa? Dovrebbe essere un ospedale. L'ospedale di una prigione. Sì, ma loro lo chiamano campo di concentramento. E siamo quasi tutti ebrei. Ma cos'è? Cos'è questa ossessione della razza? Non può essere vero quello che dici. Cosa stanno dicendo? Che ci manderanno tutti su un'isola? Isolati dal resto del mondo? No! Non può essere vero! No, non può essere vero! Gas! Sterminio! Pulizia etnica! Distruzione della razza, tutti in una grande stanza, nudi. Una doccia. No, non ci credo. Non è possibile. Ma cosa stanno raccontando? Siamo in Europa, millenni di civiltà. Ma quale civiltà? No, Denise, Elisabeth, Michelle, almeno voi, vi prego, salvatevi. Vi prego, salvatevi. Cosa? Sì. Ah, vi siete nascosti. Dove? In un convento a Bordeaux. Ah, ce l'avete fatta allora. Denise, hai portato con te la tua gattina? Oh, sarai disperata allora. Ma che farete? Sole, piccole, senza denaro. No, non lo fate. No, non andate da mia madre. Non vi aprirà mai la porta. Ci sono gli orfanotrofi per i bambini poveri. Ecco cosa vi dirà quella strega. E non andate alla stazione a cercare me e vostro padre tra i sopravvissuti, no? Noi non torneremo. Perché anche Michel, vostro padre, è finito. Come me. Io morirò tra poco. Forse adesso. E avrò 39 anni. Per l'eternità. Lo so. Lo sento. Me ne sto andando. Il tifo. Dicono che ho il tifo. Che importa? Che importa tifo, fame, follia dell'uomo? Quale caricatura di Dio può volere tutto questo? Adesso sono stanca. Non ce la faccio più. Voglio dormire. Mi nascondo sotto questa coperta, mi rannicchio come una bambina, chiudo gli occhi e sogno. Inseguo l'ultimo pensiero. Le mie bambine che corrono felici tra i campi di grano, le spighe, le labbra rosse piene di allegria, le voci che rimbalzano contro le nuvole. Mamma, bambina, dove sei? Sono qui, vi vedo, bambine mie, state giocando felici nel giardino della nostra casa. Vi vedo, sono lì. Con voi. Non sono più in questo letto, in questa prigione, no. Io sono volata via. sono in casa nostra adesso. E sto scrivendo l'ultima pagina del mio libro, seduta alla mia scrivania, davanti alla finestra della mia stanza. Ed entra il sole. Un bel raggio di sole caldo che mi riempie il cuore. E non ho più freddo, non ho più freddo, no. Non saremo mai più sole, ve lo prometto. Aspettatevi, non vi lascerò più, bambine mie. Saremo liberi, finalmente. Sì, liberi.